Eco 10. C'è qualcuno qua? Attenzione, Lugariello, ci sei, cambio. Attenzione, Lugariello, ascolti chi sta mia. C'è qualcuno qua sul 10, cambio. Aveva dentro, che gli avevi fatto ascoltare, era gravida, 45 anni. Dipende, tutto in acqua, deve essere qualche macellaio, gli ha aperto l'acqua. Ma no, negativo. No, non è mal Mediterraneo, no, il Calabria lì non è Mediterraneo, è il nostro, è Adriatico, è quello lì, vero? Là stanno arrivando i neri. Ma no, non sono i neri, vabbè, però è polizia. Ormai la Jeep ha preso l'appalto con tutto il corpo italiano, positivo, arrancano. Vabbè, ma montano motore Fiat, qui sta bene sti Fiat, Tutto Fiat, come Fiat Chrysler, quindi comunque sono riusciti a metterne molte in giro macchine. Dato i grossi incentivi. Le vedo in giro come siano utilizzate ormai. E chi più chi meno se la può comprare, non ci devi che danno. Incentivi, tanto che tanti banchi, non c'è. Un lavoretto un po' sicuro, là, che non c'è altre spese, gli piace, mica le compra. Finanziaria vai. Qualche modo già paghi. In due giorni noi abbiamo il finanziamento, Vabbè, protestato non so, protestato qui. Da quando ci sono questi due, minchia, mi fanno finire tardi di nuovo. Noi. Ma io sono appoggiato a Bio e puntavo fare il suo giro e la proglia là. E poi arriva e mi dà fastidio queste cose, capito? Non so per un'impressione in tutti. Buongiorno, buongiorno cari amici, il pezzo blu. Non c'è niente di più bello, uscito dal lavoro, la cioccolata calda, con i biscotti, con i savoiardi, cosa li dai? Io vedo che ti la bussina, me da lì due. Io faccio. No, non ti preoccupare, buongiorno. Buongiorno a lei, un attimino, vabbè, arrivo, Natalino, ci sei? E beh, genio, già finito hai, travaglia. Ma forse, non è mi vuoi ammazzando, Osso, tutto baraglione. Ho iniziato alle 9, 9:10. Sono già un quarto lavoro qua. Ti va bene allora, là. Eia, che vagava. Devo salire da Roberto in officina, raga, non trovo il tempo necessario. Dovrebbe passare lui già a prendersi un caricabatterie, Mi sta aspettando una risposta per un 3009. Ah, ti sei preso il 3009? No, non ho preso niente. Ho trovato a 172 euro. Mi sta aspettando una risposta. Ah, ok. Io non riesco a prenderlo. Il mio va bene, lo conosco. Digitale. Io volevo prendere il 6009, l'SS 6009. Cosa ne fa se digitale? Vabbè, digitale, mi do sempre la vecchia maniera. Vabbè, ma uscivo benissimo, l'apparato andava veramente bene, uscivo bene, con questo microfono. Niente da dire, ci mancherebbe. Ma come apparato andava bene, cioè va bene, perfetto. Solamente che la sintonia continua, tutto lì. Ripeto, niente da dire, solo che... Adesso magari compro quello, poi domani se c'ho soldi compro anche quello digitale, voglio vedere la differenza. Ehi, andava bene. Lo vorrei provare con col Prox, col 1000, col Prox 1000, per vedere come va. Solamente non riesco a fare i contatti al microfono. Cambio. Che magari... Chi c'è sul canale 10? Genio, Gabagaba! Avento, Rigariello, se stai ascoltando chissà mia, Gabagaba! Attento, Atarino, Alfa 1, se tu ascolti questa piccola chiamata che ti chiama, Gabagaba! Ia, Gabagaba! Ia, Concetta, mi. Buongiorno, Concetta, Gabagaba! Viglia, ma se lo c'è un attari quello me legato? Sì, quell'M93 questo, Emmy. Va bene, diluso, va bene, lascialo così che va benissimo. Ho capito. Guido mi fa diventare schifo, non lo qua. Di quanto è piccolo non riesco neanche a usarlo. Che magata, che cosa vuoi fare? Ci sei riuscita ad attaglielo. Sì, c'ho anche l'MB più 4 nuovo. Quello lì l'ho comprato da Antonello. Nuovo in scatola a me. Ma di Dio. No, già può servire. Boh, penso che ne hai due. Venitelo, boh. Quanto l'hai pagato, lo vendi, se te lo comprano adesso. Beh, bene c'è quello là di radio. A voglia. Ci ho messo il cacciavettino anti-induttivo dentro. Il cacciavettino anti-induttivo si può fare anche dallo stio della canapa, se ce li ho così. Vedi, uno fine fine me ne serve. Se tu vedi quei trimmer ti spaventi. Ma non puoi fare, io me lo so costruito. No, fine fine, quello per me. Uno stiletto di canna da pesca e con la rima te lo fai. Però piano, a parte là che ti fai le cacciavettine. Ho capito, con quelli antinduttivi che avevo io, di quanto sono piccoli qui, come si chiama? L'ho tagliato per farlo più piccolo, nulla. Ma ce la fai, l'ho fatto io. Ci vuole uno stiletto della canna da pesca, il più piccolo, la punta, e da lì te lo fai, io l'ho fatto da lì. Ci vuole che vado la foto, Gabagaba. Bisogna buscarlo uno stiletto di quelli lì. Allora, che lo devo dire non la ciappo, allucinante. C'è l'acqua, c'è, vedete, mi nomi? No. Penna. L'altro giorno l'ho pulito questo cassetto, cazzo, devo schifo. Aspetta un attimino il telefono. Che ragazza, mi rompe il tuo quadrato, se non a prendersi l'alimentatore. Chi fa prendersi l'alimentatore? Gli ho sistemato lo spinotto di un alimentatore di computer. Ah, che ragazza. Qual è il tuo cuore, è vero? O no? Allora, quel Roberto Quadrato che può comane deve essere. Ogni volta che la fa cabagaba. Ma è vero? Ma tu ti biliardughi su gatta. Non ti fai? Come fai? Non lo puoi usare? E ok, dai, che bagaba. Lui sta venendo a pigliarcelo l'alimentatore. Sì, che sta venendo? Ma Roberto si butti la giubbata già a 2 in frequenza. Che ragazza. Che la sei vendilo? Ho detto che Roberto l'ho battezzato io. E a che fa durare un cacciavite antiduttivo? Attimo la foto, aspetta. Buongiorno, ciao io lui cacciavite induttivi, tutte le misure. Ciao Cla, me lo so costruito, là. Me l'ho costruito, là, Natalino, vediamo un po' Natalino a Capodanno. Vero. Se ti serviva, bastava dirmelo, ce li ho. Però già mi sono arrangiato. Basta far vedere che voce. Io ce li ho, se vi servono, basta dirmelo. Ma te l'ho mandato, che bagata. Mi serve microscopico, mi serviva. Capito, microscopico, perché tu se vedi questi rimetti spaventi, ti dico che ti viene la paura solo di toccarli. Io ce li ho tutti. Ce li ho tutti, microscopico o non microscopico. Ce ne ho due, neri e tre bianchi. Croce, taglio. Ce li ho. Claudio, c'hai sempre questo adattore che ti avevo regalato io? Fa quel famoso, se l'ha rotto. Sempre ce l'ho io, a me non mi si faccia nulla. Grazie, avviene una di, Vabbè, io lo usavo spesso, questo qua, dalla stazione saldante, mi dice, non funziona, mi dà un errore. Non so perché. Ma sono di questi giorni, lunedì lo apro, di nuovo, volevo vedere una cosa. Se riesco a fare una cosettina, perché mi pare strano, mi sembra un bel strano. E niente, vediamo un po' se riesco a sistemarmelo, perché lo stiletto è nuovo, io c'avevo solo originale e in più uno dei cavi avevo comprato, lo voglio sistemare, perché quello lì mi trovo bene, a parte c'è la punta, un bel sottile, sembra un ago, mi trovo benissimo, guarda, è una bombetta quel saldatore, già ne ho, non è che io manca i saldatori. Stavo dicendo, invece dell'alimentatore mi stavo dicendo, non ce l'hai uno al trasformatore da riparare, no? Da mettere a posto? No, Cla, uno l'ho dato, e lo faccio battere, poi la palla al balzo, poi ho avuto quel problema là di quell'alimentatore switching, il tuo cosa ho fatto, quello che hai regalato tu, praticamente gli ho toccato il trimerino, poi si è messo a posto e funziona bene adesso, ce l'ho qua, non sto usando adesso. Ma te l'ho detto, è quel trimerino che va fuori faccia, lì bastava regolarlo e per non muoversi ne mettevi della pasta stagna, capito, della ceralacca, vedi che non si muoveva più. No, e quelli sono eterni, quegli alimentatori, guarda, ZG l'unica cosa buona che ha fatto sono gli alimentatori. Gli strumenti, qualche uno, quelli ad aghi crociati sono buoni, ma i primi che ha fatto sono una gaggata, come i commutatori. I commutatori sono proprio da arresto, cazzo. No, ma switching l'alimentatore non si abbina a nulla. No, troppo rumorosi sono. Questi qua sono silenziosi. Adesso lo misuro, aspetta che me lo controllo, perché ogni tanto male forse come lo accendo, magari così alla giga, tocco poco a poco la cosa del voltaggio, aspetta che lo misuro. Dipende da lì. La parte di destra è una giù 3, faccio 2 vanni digitali e uno minore di su quella lancetta. Perfetto, qua, 13,8. Già va bene. Ehi, quelli con la lancetta sono i migliori, Natali. Quelli con la lancetta sono i migliori test. Quelli digitali già fanno bene, però sono ucciso. Allora, io ne ho uno, me l'aveva fatto prendere Luca, praticamente tutto digitale, fa tutto da solo, non c'è bisogno di fare commutazioni. Poi lo avvicina alla presa e ti dice se c'è corrente o meno. Ti segna la cosa, mi aspetta, lo faccio sentire, guarda, aspetta. Tante, aspetta, va. Ah, sì, lo prendo, lo accendo, senti? Aspetta, allora, alert, aspetta. Senti, Cla. Mi sta a indicare che c'è corrente. È micidiale. Sì, così carino, già va bene. Va bene. Dai, datemi 2 minuti, io sono rientrato adesso, ho trovato tutto pure davanti, io sono 11:15, boh, ma non esce più. Dai, ci sentiamo tra un attimo, riprendi o Natalia? E se no cacciavite in tutti, tipo, ne avevo uno, l'avevo comprato. Non mi ricordo dove, però era bello, in vetro resina, era duro, vividi. Di un test mi sei barrato, visto che ho pagato 150 euro dalla GBC da quel ladro, che era professionale, ma 150 euro erano, no, 150.000 lire l'avevo pagato, quando c'erano ancora le lire. E visto proprio mi sei barrata, dov'è? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? E chi vuole? Poi, ciao, mandare in canale dalla macchina, come sto uscendo? Ah, sono basso, ti ricevo io. Chissà dove sei. Lontano, sono a casa e sono verso Luna e Sole, là. Ma, basso da coccio, Il radio. Il radio, guarda, 1, 2, 3, prova. Di solito questa chiamata è buona, è strano. Sì, il segnale pure è basso. Sarà in mezzo ai palazzi, forse. Sì, io sono... Se mi sposto, magari Attento, l'Altalino, mi ascolti? Sì, già ti ascolto, ma sei pazzo. Ok. Ho equipa di l'antenna mia che è pazza. Non lo so, non c'è nessun altro? L'hai detto già. Altalino? Sì. Chi c'è in frequenza? C'era Luca e Claudia, ma non c'è più nessuno. Vediamo un po', Claudio, mi ascolti? C'è rimasto, te l'ha lasciato da solo, va? Così è, da solo te l'ha lasciato. Ti ascolto, basso, basso, ti ascolto. Del segnale e del radio. Sicuramente sei in zona negativa, là. Lo so. Comunque l'ho portata da Pierluigi, la macchina, gli ho fatto vedere il difetto che mi faceva e praticamente mi ha detto che ci vuole cambiato lo strumento, che non facciano cagate loro, che devono cambiare lo strumento che è difettoso, che stanno aspettando la garanzia per cambiarlo, capito? Non ti capisco, c'è Concetta che si sovramodula. Prec? Anzi? Ciao Natali, ciao Gianni. Mi dici come sto uscendo di segnale e di radio, che sto trovando una cosa sottovecchia. Esatto, lo sì, di radio. E il segnale già è forte. Gianni, ci sei? Gianni è macchina, non lo so se ti ascolto. Ma arrivava oltre al 9 qua. Vabbè, va, qua sta arrivando basso di sia di segnale che di radio, chissà dov'è. No, sì, di radio basso. Alzati un po' di volume. Risulta sempre satura, mi sono un po' allontanato. Sì, già tra satura. Vabbè, roba vecchia. Roba vecchia, vecchia, vecchia. Adesso a un certo punto. Lo stanno ancora prendendo questo impianto, ma per carità. Che apparecchio è? Cosa volevi già? Io mi stavo... sono arrivato adesso. Ti stavo chiamando per un controllo, ma adesso è sparito. Ciao Cla. La radio non l'ho passato, davvero? Sto provando una cosa che ho trovato dentro il cassonetto. Se è un lignaletto, non l'ho messo, non ti serve. Ti ho attaccato al baracchino, anch'io sto usando il baracchino, però sto usando 4 watt. Gianni, mi senti? Ti sento, ma sto calando. Non si a piedi. No, in macchina sono, ho attaccato quel portatile SOS. Ah, va bene, che zona sei? Zona tappetino del quadrato. Vai, 9:10 stai arrivando. Cazzo, va bene del radio, te l'ho sempre detto che è micidiale quel portatile, va bene del radio, se mi stai usando un baracchino normale. Gianni, qua è S9. Quanto Giostra, buonasera. Buonasera, buongiorno, S9, radio buona. Ho visto quella antennina che tu porta. L'antennina arrivava bassa, deve essere perché c'è l'antenna bassa lì. Vabbè, magari è coperto per lui, però qua sei 9:10. 9 a Gianfranco, stai arrivando, quindi già va bene. Ho detto Gianfranco, che cos'è che hai trovato dentro il cassonetto? Un 300P, ZG. Ci avrà anche il sale sporco perché l'amplificazione non funziona, quindi... Boh. Vabbè, tu dalla media lo faccio funzionare io. E tu cosa mi dai? A me mi serve disperatamente un interruttore, però da 30A commutatore a 3 contatti è sufficiente, però devo avere almeno 30A, se poi ne ha 40 anche meglio. Ma questo commutatore? Ma commutatore d'antenna no, commutatore di... quel commutatore a 3, e certo te lo compro, cosa ne gioco io? Un interruttore, è un normale interruttore, però per commutare diciamo 30A, ecco che non sono pochi, è un interruttore normale, pulsante, a leva, come tutti quelli delle macchine ad esempio, delle luci, degli autocarri. Ah, ho capito, aspetta, voglio vedere, quindi adesso si è agganciato, quante volte le stai dando? Saranno rotte 3-4, però va visto questo affare, a parte che sulla mezz'altra di spettro sta andando in multibanda, cioè arriva a 30, 60, 90, come tutti i zappaggi d'altronde. Sono lineari del cacchio, Gianfranco. Io ho quello, il 747, una canonata. Questo sattura la modulazione, come tutti. Ascolta, prova a staccare, cazzo sì, sul 3 del 30, qua sul baracchino. Prova a staccare a vedere. In diretta non stacca. Perché c'è lei deve essere andato, può aver cambiato, ma non mi ci metto neanche per scelta. Potenza già ne dà, però non comoda. Infatti non funziona neanche per l'amplificatore che potrebbe mettere lì. Sgancia, quando sganci la portante, sgancia, voglio vedere quanto aumenta. Sì, stavo guardando come lo fa, lo vorrei staccare e mettere. Guarda, adesso lo stacco, tolgo i PL. Eccomi qua. Come è 1, 2, 3, test? Sul più, sì. Sul più. Quindi da 20 a 30 va, però ti porta via tutta la radio. Sì, sono per carità. Un giocattolo, capito? Un giocattolo che tra l'altro sto leggendo le recensioni, ma non fa neanche mentre ci vanno, perché troppe armoniche. Tra armonica è terribile, cioè a livelli di S9 ti sentono su. Già lo so. Io infatti li odio questi linearetti così, perché fanno un casino di Gesù Cristo. Io ti ho detto c'ho 747, però mi sto usando il baracchino, l'Elbex 4082 con l'MB più 5, perché il microfono da palmo non mi piace usare, però così già va bene. Sì, no, questo non va bene in realtà, perché mi hanno detto che la voce non è proprio perfetta come l'altro, come l'altro professionale, però si può regolare, ma non mi ricordo dove. E niente, se lo vuoi te lo tiro in testa, claro, tanto era buttato. Sono uscito. E sei uscito già fa. Scusa Gianfra, stavo rispondendo al telefono. Sì, un attimino mi vedo con chi dalla finestra che qualcuno sta bruciando e sta pensando bruciare. Che mania questa di bruciare, non ho capito che a certe ore non lo dovrebbero fare, che lo facciano di notte quando le finestre sono chiuse. E se lo vuoi, tanto per me non ne posso nulla, non ne uso di questa roba. L'ho trovata per caso spostando la roba ed era sotto. Quindi ho detto, cos'è? Ehi, io metterò da parte, ci vediamo. Già posso uscire adesso. C'ho ancora quel cacchio di Rosmetro. Non lo unisci uno, che? Guarda come sto scendo, Claudio, adesso. Sono vicino a casa. Santiago 8 già. 8, radio 5 sempre. Buono, va bene, sì. Invece da Gianfranco, mi senti? Sì, S9 sempre, S9, e la radio è buona, finalmente non amplificata, però è comprensibilissima al 100%, senza proprio, non mi sfasci il volume, ecco. Kappa, vabbè, è un portatile, con la tema base magnetica di quelle che si sollevano, le quelle telescopiche. Ma è sempre andato bene, andavo qualche plantavano a pescare, mi accompagnavano con la panda, lo mettono sulla panda e andava bene. Sì, già riconosco, ne avevo anche uno qua di portatile, un po' più moderno probabilmente, l'H520 Plus della Intec. Stavo pensando di anche quello di farlo fuori, perché è un portatile, anche se va bene, c'è anche l'attacco per antenna, per batteria, eccetera, no, c'è tutto il kit per metterlo in esterno, ma è sempre lì buttato, ed è un peccato. A me mi viene di lavoro di pulire a fare i chinoghi. Se gira, me lo metto qua in macchina, mi ha fatto il Milan qua, ed è di luce. Ah, mettilo già, rimetti la base magnetica, centro cappotta, con uno straccettino, ti fai uno straccettino rotondo, per non essere brutto, rotondo, e metti la base magnetica quando esci che vai in giro, capito? e poi la stacchi e la metti dentro il cofano, cosa te ne affutti? E il baracchino te lo metti come Cristiano, te lo piatti bene. C'è un volume allucinante. No, va bene, non ti ricordi inizialmente che usavi quello? Io ti sentivo quando uscivi dal produttore, se era grande. Sì, l'ho usato anche con 747 e il caricabatteria, il booster per caricare la batteria della lacrima, per farla partire. L'ho usato anche con quello, sempre ci va forte, e con l'antennino l'ho messo sopra la ferro da stessa. Già me lo ricordo. No, già va bene. Lo puoi usare tranquillamente quello, quando voi fate due chiacchiere che vuoi uscire in macchina già, non c'è problema. Va bene, dai, io mi allontano un attimo dalla radio, se siete qua le prendo dopo. Vabbè Gianfra, mettilo a parte, poi quando ti chiamo, se sono in giro, ci troviamo dove siamo trovati l'altra volta, forse magari mi avvicino in campagna una settimana, o domani, non lo so, ti chiamo e tu sta a provarlo a vedere come funziona qua. Ciao Dio. Oi. Ciao, buongiorno. Dimmi una cosa, ma perché positivi ciò o negativi? Guarda da te, vedi a vedere. No, la messa è instabile fra né negativi né positivi, prova a fischiare. Ehi cappa, vedi a vedere. Perché a me mi sta dando un po' negativo, mi sta dando. No, sono fissi, sì, Santiago 9 Radio 5 fra. Santiago 9 Radio 5. Ok, lasciami dire così. E così come ti è, claro? Sempre 9 Radio 5. Guarda che c'è Gianni che avesse l'ascolti col portatile. Vai già. Ehi, a Franco, mi ascolti? Sono vicino a casa col portatile, là. Niente, c'è qualcuno che era sopra di lui e non l'ho ascoltato. C'era questo, cambio. Pinuccetto il muro, Attento, Pinuccio. Pinuccio, non dovevate mettere una cosa, manca a me a Budugio. Sono in tre parlando. Attento, Pinuccetto il muro, cambio. Aspetta che aggancio, e c'ho 2,5 volte. Aspetta, che aggancio. Ecco qua. Attento, Pinuccetto il muro, ascolti lo sparviero, cambio. Ma, farà dos'è. Attento, Pinuccetto il muro. Va bene, no fra, io non vedo nessuna anomalia, va bene. Vedi Gianfra, questo è 747 agganciato, vedi come funziona bene? 2,5 volte e neanche una cinquantina, vai. Minuti, ho chiamato e se tu non mi rispondi, vieni avanti. Certo che ti ascolto, per forza ti ascolto più. Non arrivi Murigatto, arrivi Santiago sì, Radio 5, non Murigatto, va bene. Ti arrivo basso perché sto usando il baracchino. Il baracchino sto usando più, sto usando il baracchino piccolo, capito? Però vedi se c'è qualche cosa agganciata. Guarda se c'è l'attenuatore inserito più. Abbaira, se c'è l'attenuatore inserito, vedi tu se Santiago 6. Non so, tu stai arrivando comunque, Santiago 6 Radio 5. Fra, meglio lo ascolti tu a Pinuccio. Io lo sento sì, però lui se mi sente basso. Veramente non stavo neanche guardando. Buongiorno Pinuccio, vai vieni avanti. Pinuccio, l'hai sentito a Franco? A me se ho. Io ascolto un segnale di uno, per Radio 1. No, qua è Santiago sì. Santiago sì, col baracchino, con l'altro non lo so. È spenta. Sarò bene qua. Ah, Budugio. Arriva bene qua. Anche qua arriva bene. Però se c'è un bel QRM mi ascolta a basso, dai. Di solito mi sente molto bene, vabbè, sarà questo baracchino. Pinuccio, non ti intendo, cambio. Sicuramente non sente a me. Io li sento tutti, anche da Siri, anche da cosa, però a me non mi sento. Vabbè che sto sempre basso. No, io Siri mi arriva più di 9 a me. Lui è a Budugio, è molto più lontano, però arriva Santiago sì. Però col baracchino mi sente un attimo, mi sente basso. Vabbè dai, mi stacco un attimino e sentiamo dopo. Fra, se vuoi chiacchierare mi c'è Gianfranco, Gianni, mi sembra c'è anche Natalino, Luca, vedi tu, io mi allontano un attimo che devo fare un po' di cosette. Ehi cappa, dai, Un attimino che sto cambiando un altro baracchino, lo provo sempre con quello lineare là, il 4747. Ehi, ehi, ehi, giocano bene quei linearetti. Ok, dai, Gianfra, mettilo da parte e poi ti chiamo e ci vediamo, ok? Sì, si chiama sempre perché sono molto impegnato, capito? Quindi proprio il solito tiro al volo e poi niente, se no è un casotto. Io ti chiamo, tanto molto probabilmente domani mattina scendo in campagna. Ti chiamo, ci vediamo al solito posto e me lo dai lo prof, così te lo faccio sentire, dai. Nel caso poi serve a qualcuno lo facciamo i soldi. C'è qualcuno? S7 importante, ma senza radio. Oh, forse è Franco che sta provando. Fra, tu sì. No, Gianni? Chi è? Tu sei Fra? Io sono Fra. No, negativo, non sono io. Ancora non sono entrato, aspetta. Ok, c'è Gianni, dai. Riprendi tu già, fai girare per Natalino, Luca, Gianfranco, dai. Che io mi allontano un attimo, che so che ancora sono rientrato poco fa e ancora mi sono spogliato, dai. Ci sentiamo tra un attimo. No, rimango in correzione, sto camminando in macchina, capito? Va bene, va bene. Ok. Ok, Gianfranco. Sì, sto ascoltando, c'è gente sotto che sta parlando. Ma non so da dove siano. Dimmi. Capo, poi non sento nessuno, vabbè. Con questo è abituato all'altro, e questo è il 48. FM 500 S, l'FM 48. Anche lui non l'FM. Vedi a vedere come ti arrivo adesso. S9 la radio è buona, sono spagnoli che stanno chiacchierando, adesso li senti qui, chiaramente, sono gli spagnoli che stanno facendo questo, S9 comunque la radio è buona. Ehi K, guarda a vedere adesso che ti faccio un altro passaggio sempre in diretta. Ok, vieni a vedere cosa è successo, dal primo al secondo passaggio. 9:15. Ok, qui la 48, MB più 5, 746, 47. Ok, ma queste distanze non servono. Tu dove sei? A sotto? K. Non hai proprio vista ottica per me, perché io vedo benissimo Sennori, vedo il pittore, vedo fatta del paese. Cosa volevo dire? Natali, tu lo senti a Franco? Tu arrivi forte, Natali, Lo senti a Franco di Sosso? Sì, anche lui mi sente. Cappa che lo ascolto, è abbastanza bene anche. E ultimamente ha migliorato parecchio. Mi dai il segnale per curiosità, perché di norma in trasmissione io sono sempre molto molto basso. Capo, aspetta però che cambio orario per darti il segnale, perché questo non mi stai arrivando 5, ma non mi sa che sei di più, aspetta. Vieni avanti Gianfranco. 1, 2, 3, 4, 5, test. 6, 8, modulati quasi 9. Allora già va bene. Non è troppo forte la radio, no? No, va benissimo, anzi, è bellissima. Ok. Anche se è preferibile dell'altra, cioè più. Anche se sono gli stessi microfoni. Vabbè, rimango un attimino in ascolto, che sto. Che sto anche lavorando nel frattempo. Ci sentiamo più tardi eventualmente. Riprendi tu Natali, fai girare, c'è anche Gianni ma sta guidando e poi non me lo ricordo più. Anch'io devo rimanere in ascolto, sto facendo cosa qua. Ci sentiamo più tardi, ciao Franco, ciao Gianfranco e chi altri ci fosse in ascolto. Dai, fate tranquillamente, non ci sono problemi, tanto io mi troverò un impegno. Avanti, ci sentiamo, dai. Se hai bisogno di prove, Fra, già sono qua in ascolto, ok? Cappa, hai visto, l'ho attaccato, mi rende di più il 48. Io mi sono gabbizzato, super il 9. Cappa, infatti, per perché è più basso di potenza, capito? Però nel coso c'è scritto, allora c'è scritto che l'ingresso 0,5 10 watt, puoi uscire con 10 watt di potenza con la 747 e invece non ha problemi. Guarda giù te le mani, io ce l'ho a 3 watt, non posso mettere anche a 10, ma da 3 a 10 mi crea solo problemi, va meglio a 3 watt, capite? Io lo metto a 3 watt, modulati 5 e mi dà una settantina di watt, se lo metto a 10 non c'è nuda, mi satura la modulazione e non esci bene. Vabbè, 48 originale darà 4 watt, darà 4-5 watt e vanno bene. Infatti con la LAN 48 io lo usavo prima, adesso l'ho attaccato all'Elbex perché l'Elbex c'ha la potenza regolabile, capito? Da 0 a 10 watt, poi nei modulati ne modula 12-13, però io lo metto a 5 watt e non sbagli, lo lineare funziona bene, non scalda, è a posto, capito? Vieni a vedere, adesso lo sto usando, non so, questo è 48, l'MVP5, qui sto usando lineareto però, guarda la differenza, da così, da come adesso, a come adesso, che tu sei più lontano di Gianfranco, vieni a vedere. Cosa ridere, da 7 vai a quasi a 9+5. Va bene, va. In pratica esco come quello grande, no? Sì, stesso segnale c'hai di quello grande, fra. Stesso segnale. La radio non distorce, va bene, capito? E così è comprensibile la radio, senza agganciare? 7 a picchi di 8, per radio 5, non cambia niente. Conviene usare così, tanto io il 48 lo posso usare perché non ho sguatteri. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo se hai voglia di, cioè se hai bisogno di qualcosa, ok, già sono qua. Sentiamo dopo, ciao. Ciao. Qua fuori. Lui, già sono qua, sto facendo cosa. E pure io, dai, mi sto preparando il pranzo. Attento Luca, mi senti? Ehi, Agiani, ti sento, dove sei? No. C'è Roberto Quadrato, dove mi ascolti? Ma in macchina. In macchina sono, vedi? Ti ascolto, segnale 3, va, già. Ma tu l'ho passato, eh. Sì, è passato, però ho preso la boccola che ci mette sotto, non è stato uguale, c'era perché c'era, tu sei pulissimo. Infatti me l'ha detto, è vero, me l'ha detto che mancava, questo me lo ricoglioni tu gioco, me l'ha detto che è passato da te, che è passato anche qua, devo dargli roba pure io. La guarnizione, poi un attimino per adattargliela alla boomerang, capito? Se ce la fa adattargliela. Sì, ti ascolto comunque già, dai. Oh yeah. Luca, come sto uscendo? Bene, bene, Natali. Adesso non so se c'è il rosmetro qua in questo monogatto. Ma ragazzo? Forse non ce l'ha, boh. Ha più bastanti funzioni, ma non lo so se ce l'ha. Per segnarmi a vedere se c'ha stazionari l'antenna. No, non, io ho messo la massa a terra adesso. Magari adesso non disturbo, boh. Va bene, pagare. Hola, nulla li faccio. No. Guarda la voce, metti. Hola, 1, 2, 3, 4. Non è vero, c'è. Niente. Non li faccio nulla. Però mi sa prima di vedere. Hola, guarda un po'. Niente. Guarda, nulla cambia. Vabbè, pronta a mangiare, ragazza. Attento, l'arrivo della Spagna col Covid-19, attenzione. Attento, l'arrivo della Spagna col Covid-19, attento. Addietro l'amico si è qua la Sardegna che è molto messa a me. posizioni